Rock Wave, l'onda del rock. Ebbene sì, sono le 22.03 di questo lunedì, ultimo giorno del mese di ottobre. Buonasera da Agostino Spolaore, questa è la voce straordinaria questa sera perché io non dovrei esserci, ma sono ben felice di fare da regia a questa serata, un evento grande, bello, bellissimo. Avremo un grande artista presente questa sera in studio, ma prima di cominciare, buonasera Maurizio. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. E buonasera anche a Vannuccio Zannella. E buonasera ancora una volta coinvolto in queste vicende. Questa parte del ruolo. Ah, possiamo dire questo. Allora, prima di cominciare come sempre a presentare questo artista, vi ricordo i nostri dati tecnici. Allora, le nostre frequenze 88.700, 94.600 MHz in modulazione di frequenza. Vi ricordo il nostro sito www.bluradioveneto.it. Vi ricordo le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, oppure l'altra gestita dal nostro direttore artistico, parte in causa estrema questa sera perché ci ha portato questo artista, cioè Alberto Prisco, che salutiamo. Ci arriverà fra poco, È già arrivato Maurizio, è già arrivato. Non l'ho visto. Allora, Alberto Prisco, che cura la parte, appunto, diciamo rock della pagina su Facebook, dove potete trovare tutte le varie notizie. E vi ricordo inoltre un'altra cosa importantissima: i nostri numeri telefonici con in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda i vostri SMS è il 346 23 20 033. Questa sera abbiamo, dicevo, un grande, grandissimo folk singer inglese, forse l'hanno, diciamo, paragonato a Chris Martin, Paul Weller, forse anche a Jeff Buckley, ma insomma in sostanza lui è Jont. Benvenuto Jont. Ah, buonasera a tutto. Ciao, benvenuto a Blu Radio Veneto. Ah, grazie. Grazie di essere qui questa sera. Vannuccio, cosa posso dirti? Sono molto emozionato stasera perché io l'ho conosciuto ancora all'epoca, qualche anno fa, quando è venuto in Italia a Padova a suonare in un piccolo locale. Era uno sconosciuto assoluto. Cosa però dice? Ha fatto la sua bella figura. Ha fatto una grande figura, esatto. Visto che ce lo ricordiamo ancora bene e soprattutto visto che insomma questa sera è qui a riproporre addirittura un terzo album. Certo, un album nuovo praticamente. Ma forse dovremmo dirglielo anche lui. Esatto, esatto, esatto. For you, Jant, sì. It's a real pleasure to have you here, and it's very fantastic that after your first show here in Padua, you came back after three albums. So it's even more fantastic to have you here. Yeah, well, it's my pleasure. I love it. I love Padua and I love playing in Italy. So what we can say? We can start maybe with the first song. Maybe. Yeah. Since they said it's the 31st of October, a very supernatural night. Right. Yeah. So we may have the first song, which is Supernatural. But first, would you like to tell us something about this song? Yeah, absolutely. I guess it's not the way I use the word supernatural in the song is more to do with being. It's a love song. It's like I basically felt. I thought maybe it would be a good idea to write a love song where I imagine meeting the true love of my life. Where in the song I meet the true love of my life, and so I felt this would be a good idea to write this song. And then I was coming back from a party one night, and, you know, sort of early hours of the morning, and I started singing this song in my head, and I was like, oh, this is it, this is the song. And I wrote it, and it's become one of my favorite songs I've ever sung. So perfect. Allora, diceva, giustamente noi abbiamo fatto il collegamento tra la notte di Halloween e il supernaturale. Però giustamente Jont ci diceva, guardate, che la canzone però non parla di il soprannaturale, certo, che dovrebbe essere questa serata. Parla anzi del soprannaturale che l'amore dà. E io immaginavo di incontrare effettivamente questo amore. Una sera, tornando da una festa, mi è venuta in mente questa canzone, che è ancora una delle mie preferite. Sì, volevo solo dire questo. Questo è l'album che ha aperto tutte le porte a Jont, praticamente, Supernatural, ok? This is the album that opened all the doors for you. Sì, yeah, assolutamente. Un album molto interessante, ha avuto delle critiche anche molto favorevoli sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti, anche da noi, anche in Italy. In Italy too, it had a lot of very good reviews. Yeah. both in the States, both in the UK and in Italy as well. Yeah, I was very lucky people liked it. Ha detto che è stato molto fortunato perché alla gente è piaciuto. E vediamo se certo. piacerà anche ai nostri ascoltatori, giusto? Indubbiamente. Been thinking of you for about an hour and 6 minutes to be exact. Since they shut and we came out, and then you left. But it's long enough to know that I'm in no doubt. If I feel about you, so don't take me for a fool when I say I want to go to bed with you. Sail out onto the sea, through your eyes into eternity. Got one life, wanna find out what it's like to feel this one heart that is true. And supernatural, what am I always running from? Well, I'm not running anymore. Just to watch what you do. And I know that what I see is not just happening to me. There's something in your eyes I can tell. So let's sail out onto the sea. Through your eyes into eternity. Got one life, wanna find out what it's like to feel this one high that is true. And supernatural. Now I sky with love. I fill the sky with love. Fill the sky with love and love and love forever. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Banuccio, parliamo di questo pezzo, un pezzo molto intenso, molto interessante. Qualcuno l'ha paragonato a Chris Marti, a Paul Weller, a Jeff Buckley, ma oltre a questi paragoni, ecco, qua posso avvicinarmi forse a Jeff Buckley, cosa dici? Ma sicuramente lo spirito. Lo spirito. So, the spirit of Jeff Buckley is living in you or living around you. I think that's very flattering. But it's true. Dice che ovviamente è molto come posso dire, può sviluppare la propria vanità con questo accostamento. Okay. Però giustamente lo spirito c'è. Quello che volevo invece io chiedere a John è che noi adesso abbiamo sentito Supernatural. We just listened to Supernatural. What part of internet helped you coming out with your artistry? Cioè quanto ha avuto importanza internet nel farlo uscire, farlo conoscere, nello sviluppo musicale tuo? Well, all sorts of parts of the internet, really, because MySpace was quite a big thing. I had one song on Wedding Crashers. And because of that, lots of people came to my music to MySpace. E avendo avuto una canzone che è stata messa sulla colonna su una colonna sonora, e ovviamente molta gente ha cominciato a conoscerlo. Anche I organized this event called Unlit, which I've done for the last 15 years, which is a mixture of a gig and a party I put on in people's houses. E ha organizzato questo evento che si chiama Unlit da una quindicina d'anni a questa parte, che si svolgeva nelle case private degli amici. And my friend Dave, when I went across America doing that, I went across England doing that, and we made some small films and we put them on the internet, and millions of people have seen them on YouTube. E loro svilupparono anche un piccolo film che poi fu messo su YouTube, e quindi milioni di persone hanno avuto modo di accedere e di vedere cosa succedeva. Can we explain what does Unlit mean? Unlit. Well, I don't know. The name is on purpose. The name is a little bit abstract. Il nome di Unlit, perché vogliamo spiegare un po' cosa significa questo Unlit, è astratto, però. But so in Italian it means not lit. So non acceso, yeah. In Italia spento, qualcuno dice spento, la traduzione non è proprio giusta, spento è più bello non acceso. But there are connotations of unplugged or connotations of not, you know, not the, you know, the difficult to find or but basically it's a celebration of generosity and openness. I wanted to create a night that was the best night I could possibly have myself, so that would be a party, I could do a gig, my friends would do a gig, there would be a DJ, we'd all have a good time, there would be people I knew, people I didn't. Allora, era un, ed è ancora tuttora, un'occasione per dimostrare la generosità e la felicità di persone che si incontrano. Effettivamente questi eventi venivano creati nelle case degli amici, dove si suonava, si conoscevano persone nuove, venivano portati nuovi amici. E questo evento è diventato un po' planetario. It's been worldwide now. Yeah, this event. And it's also had very big people play. You know, Michelle Schock, Newton Faulkner, Charlie Winston, Das Pop. I don't know, like Lou Rhodes from Lamb. Different people, lots of different bands, big bands have played at it in the past. And it's just become a way of life for me. I do it all my life. I know I will always do Unlit, uh-huh. As well as I do my music. But I also always put on Unlit because it's a essentially the heart of it is the host, the person who owns the house, opens their house to anyone. It's open to anyone. Ed esattamente spiegava che poi questo fenomeno è stato ripreso anche da molte altre persone, Michelle Schacht, Lou Rose, certo. grossi personaggi, perché proprio l'importanza è questa apertura che ha il padrone di casa, che apre casa propria anche a dei perfetti estranei, per ascoltare la musica e per stare insieme. Quindi sei stato uno dei primi, anzi il primo a fare un discorso di questo genere, hai portato avanti un discorso innovativo, qualcuno in Italia lo fa anche in Italia adesso, ma dopo molto tempo. Someone in Italy is starting to do that also, right. After a while that you started actually. But you know, sai Maurizio... Well, hopefully I'm doing one in Rome on the 7th, I might be doing one in Rome, and I'm also doing one in near Chiavari on the 11th, so if you want to find out and come, email me. Benissimo, allora chi volesse, siccome ce ne sono due in programma, uno il 7 novembre a Roma e uno l'11 novembre a Chiavari, chi volesse si mette in contatto e può parteciparvi senza nessun problema. Facciamo suonare, cosa dici? Sì, adesso una canzone per noi, A Song for Us. Cool. We started from your first album and now maybe something from the last album. Would you introduce us the song? Yes, absolutely. Yeah, I'm going to do a song called Maylight, which is, I guess Maylight, it's not really an English word. It's just a word I made up, but it's sort of, I guess, the light when the sun's coming up in early summer and you're still awake and you have a sort of epiphany about life. Benissimo, allora, una parola quasi inventata, in inglese non esiste Maylight, ma ci dà l'idea di quest'alba di tarda primavera che sale. Feel it slipping away, the tension that fills your days, your wishes for happiness, the bottom of your well's a mess. I've been lying out here at sea, thinking should I walk or just be me, but now it's easier to believe, 'cause it's coming to get me. It's a Maylight. It's a Maylight. Things are always coming round again. These things I thought I'd never believe are coming to get me. It's been a while, yeah, but now you see it. It's a magic world we're in. Such a magic world. It took you down, but you didn't believe it. It's a magic world we're in. Such a magic world. So come on and touch me. Now I can dance like I really believe. Sing a song into my ear. Throw out the past, throw out the fear. Throw out these things you've been told are true. Throw out these things between me and you. Throw out these ideas of what we should be. Climb the cliff, jump into the sea. It's a Maylight, it's a Maylight. Things are always coming round again. These things I thought I'd never believe are coming to get me. It's a Maylight, it's a Maylight. Just when I thought I'd reach the end, these things I thought I'd never believe are coming to get me. World we're in, such a magic world. It took you down, but yeah, didn't believe it. It's a magic world we're in, such a magic world. Yeah, I'm gonna stay here. side till I die. Yeah, I'm gonna stay here right by your side till I die. Cosa possiamo dire? È magico, sì, ha fatto una magia, ha fatto una magia, una delle tante sue magie, bellissimo. One of your magic, definitely a wonderful song indeed, una canzone veramente meravigliosa. Ma questo, sai Maurizio, ci porta anche a parlare di una cosa. Per esempio, spesso e volentieri noi ascoltiamo della musica pomposa, suntuosa, sì, arrangiatissima. Certo. Ma vuoi mettere ancora appunto la sensazione che dà una voce e una chitarra? Quando un cantastorie, veramente un cantastorie, un giramondo, cantastorie, giramondo, ma un cantastorie al 100%. We were saying that sometimes, sì, we are so used to have very arranged music, very full of effects and but we can still have shivers when you feel a singer singing with his guitar, just his voice and guitar. Quindi i brividi li abbiamo avuti. Beh, la canzone è bellissima, the song is wonderful, so no doubt that sometimes having the feeling and knowing how to show it, because the most important thing for an artist is still to make other people feel what he feels. Yeah, well, for me, that in the last year for me has been more than ever in my life just playing my guitar and singing just on my own, because before I make albums with bands, but I've been being a troubadour for the last year. Ecco, questo era molto interessante, appunto, anche John diceva un po' quello che stavamo dicendo, cioè nell'ultimo anno lui ha continuato ad essere solamente lui a chitarra, abituato ad avere comunque una band che, sì, lo seguiva. Nell'ultimo anno ha proseguito solamente voce e chitarra, quindi è diventato veramente il menestrello. Perché radicalmente ha voluto questo, ha deciso questo, secondo me? Why did you choose? You made such a choice. Well, it's quite interesting because actually the reason I'm here today actually in Padua is a lot to do with a couple of friends of my music, or some people who really like some of my music on Supernatural got in touch with me and asked me to sing at their wedding. And I sang at their wedding in Sicilia. Mm-hmm. Mm. Allora, successe quasi per caso, perché proprio due amici qui di Padova gli chiesero a un certo punto, che a cui era piaciuto molto Supernatural, gli chiesero di andare a suonare per un matrimonio in Sicilia. Ecco. Then I did, for me that was like the most beautiful karmic reward for all the music I've ever done, is to be there at these strangers, basically people I've never met before, at singing in their wedding and singing a serenata for the bride. Ok, e fu per lui veramente una cosa di grandissima soddisfazione essere venir chiesto di suonare ad un matrimonio e fare questa, tra l'altro dove tutta la gente era praticamente sconosciuta, e fare questa serenata per la sposa. In fact, there's a video of that serenata on the front page of my website, so if people are listening on the internet now. Ah, allora è possibile anche vederla sulla sua pagina su internet, perché c'è il video di questa serenata. Magari noi questa sera ne sentiremo molte di serenate. Certo, certo, assolutamente. We will listen to a lot of serenates tonight. Yeah. but anyway, so what happened was after that, I was lying on my hotel bed thinking, okay, what do I really, really want to do with my life? If I can, you know, do anything with my life, what do I want to do? I thought, what I want to do, I just want to just go off with my guitar and no plan, no idea whatsoever, and just leave and let my songs lead me around the world. E benissimo, fu proprio questa, allora, finito questo matrimonio, che una volta steso sul letto si mise a pensare cosa voleva veramente fare. Quello che ha voluto veramente fare l'ha portato nell'ultimo anno ad andare via con la sua chitarra a girare. Fare il giramondo, andate in Australia, mi pare. In Australia, you've been... Sì. A toast to friends, but this feeling of freedom, let's say, brought you to Australia. Yeah, I went. I basically decided to do that, and I had a friend who was a doctor on a tiny little desert island just off the coast of Australia. E infatti la prima cosa che pensò fu di andare a trovare questo suo amico, un dottore, che vive in una piccola isola deserta nella costa dell'Australia. And he said, "Oh man, you got to come and stay here." So I was like, "Okay, well, that's my first stop." So I went there, and then I ended up living in Sydney for 6 months. Ecco, cominciò con questo invito e finì per vivere 6 mesi in a Australia. Sydney. Quindi. But and all of this brings you also a lot of things, inspiration. I've got to tell you a story. I know what I need to tell you. So basically, I was in Sydney, and I was trying to. I was living for a while in one place. I needed to find a new place to live, and I thought, how am I going to find a place to live? Appunto questo ci fa raccontare un aneddoto. Mentre era a Sydney e viveva in un certo posto, doveva trovare un nuovo posto dove andare a vivere, e quindi la domanda che si poneva era: come faccio a trovare un nuovo posto? And I thought, I'm rubbish at the internet and stuff like that, you know, doing like Gumtree and all whatever. I can't organize my life like that, so I'm going to ask the universe. So universe, please, by the time I've walked from Sydney Opera House to Newtown, this region I wanted to live, please let me have a house ready for me. E lasciando perdere tutto quello che si poteva, non so, controllare su internet, vedere eccetera, mentre stava camminando appunto nei pressi della Opera House di Sydney, dove lui voleva stabilirsi, chiese all'universo: come faccio a trovare un posto? And so I walked to Newtown, I got there and I had a voice in my head, it said, go down that street. E camminando verso Newtown, una voce nella testa gli disse: vai verso quella strada. I went down that street, and I walked down the street. There was quite a beautiful house on my right. The door was open, and I saw someone at the back, and a voice in my head said, ask in there, she will have a room for you. E arrivando appunto a Newtown, vide una magnifica casa con una porta aperta dove c'era qualcuno dentro, e la stessa voce gli disse: chiedi a quella persona cosa successe. And I thought, no, that's ridiculous. So I carried on walking down the road. E quindi niente, continuò ad andare verso la strada. Perfetto. and then I thought, well, no, actually, just a minute. This is what I asked for, so I went back. Ah, ecco, molto probabilmente. Allora, sempre gli fu effettivamente chiesto poi di tornare indietro. And I was like, I waved. I was like, excuse me. E quindi si fece vedere. She came to the door. E questa signora venne verso la porta. I was like, I'm sorry, I know this sounds a bit stupid, but are you looking for a housemate? E gli chiese, stai cercando casa? And she said, yeah. E lei disse, sì. And I lived there for 3 or 4 months. E quindi per i prossimi mesi si stava lì in questa casa. Perfetto. So I wrote this next song in the garden. Perfect. A happy ending for your staying in Sydney. Would you like to introduce the title of this song? Yeah, the song is called Teardrops and Pennies. Ok, e ascoltiamo appunto questa bellissima canzone sempre di Jont. So if another door closes, I hope you see the window opening. There's people suffering all the time. Don't waste your days, life slips away like butter from a knife. And if you had a good day, my sis, make sure you raise your bat, give your wife a kiss. The secret species, eggs in lines, stolen from nests time after time, like butter from a knife. Oh, can't you see we're all crashing in slow-mo? Hold it to this wheel with no heart. say yes. Don't wanna be sleeping too long. Why can't we try to fly ourselves back to an old skin? Making do is no way to live. What's the use? Turn your collar up to some wickedness and fudge the lines between the crimes you've been taught to miss. There's ancient ladies baking bread bang underneath this pyramid, and all these things that you and her have never said. And when the time comes that you and her must kiss, well, if you miss a mouth and screw it up a bit, you can impress her when you say, darling, each and every day life slips away like butter from a knife. Oh, can you see we're all crashing in slow-mo? We'll win the hall. What's the use? Don't wanna be sleeping too long. Yeah, why can't we try to fly ourselves back to an old skin? Making do is no way to live. What's the use? So if another door closes, I hope you feel the window opening. There's people hurrying down the lines. Don't waste your days, life slips away like butter from a knife. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Hai visto Vannuccio? Giant stava ballando sulla nostra sigla. Sulla fantastico, nostra... fantastico, fantastico. Sì, c'è sì, niente sì, da sì. fare. Allora, noi abbiamo fatto un piccolo gioco. Sì, esatto. Mentre stavamo aspettando questa canzone cantata dal vivo da Giant, gli abbiamo fatto quasi uno scherzo e abbiamo messo un riassunto della un po' di quello che si era detto prima, della sua vicenda, del suo aneddoto australiano, no? Quindi una porta che si chiude, e infatti abbiamo ascoltato Another Door Closes. E invece questo ci serve proprio anche per in qualche maniera spronarlo ancora di più invece a farci sentire la canzone che invece ha aperto questa porta. So it was a sort of joke for you, John, to put another door closes when the Australian old flat closed the door, but now we wanted to hear what happened when the other door opened. And Vannuccio, I'm going to tell you that in a song. Okay, that's what we want for you, actually. È una canzone che chiamo Teardrops and Pennies. Si chiama Teardrop and Pennies. Rock Wave. L'onda del rock. Thank you. times have wondered where this pain was. Thought that I should try to cast it out. But now I've found it, I just wanna hold it. You taught me how to be where I am now. Feeling right here in my soul, teardrops and pennies that fall. Why I can be so alone and not be lonely at all. Feed up, I'm a laid back creature. Freed up, the world's my teacher. We all live and die every day, but we're gonna dance on a wave. Right here in my soul, there's nothing bad here at all. I say time takes its toll, I'm paid up, ready to roll. Laid back creature, freed up, the world's my t-shirt. We all live and die every day, but we're gonna dance on the way. Now I've got all this love for. I've got all this love for you. And when this world explodes and we are all free, finally not the dreamer, just the dream. Just like we all are now, and always have been. Right here in my soul, teardrops and pennies that fall. Why I can be so alone, not be lonely at all. Freed up, I'm a laid back creature. Free up, the world's my t-shirt. We all live and die every day. We're gonna dance in our way. Right here in my soul, there's nothing bad here at all. They say that time takes its toll. I'm paid up, ready to roll. Laid back creature, freed up, and the world's my t-shirt. We all live and die every day. But we're gonna dance. Now I've got all this love for you. Oh, here I've got all this love for you. Posso dire una cosa solo? Prego. La magia del cantautorato, chitarra e voce solamente. Beh, abbiamo comunque scoperto come si può in maniera molto raffinata trovare casa a Sydney. Esatto, We really discovered in a very classy way how to find a home in Sydney. Excellente. Sì, è vero. È vero, è così, no? Okay, okay. Però c'è anche un'altra cosa da dire. There's also another thing to be said. This song we heard before, la canzone che abbiamo sentito prima, quindi Another Door Closes, veniva tratta da un altro serial televisivo che effettivamente non si può dire non abbia portato molta fortuna a Jont. Another Door Closes has been taken also, has been used also in a very famous TV series that brought you very good luck, undoubtedly. Yeah, it was great. I'd never watched it before. But now I'm a big fan. Well, no, I don't watch it, but I like Grey's Anatomy very much. Allora, ci ha introdotto lui di quale serie televisiva si tratta di Grey's Anatomy, che ovviamente è un telefilm che è stato molto seguito ancora, e giustamente un paio di canzoni di Jont sono state usate in questo telefilm. Ma come Jont ha avuto due canzoni, un paio di canzoni nel suo in questo telefilm? Come è stata l'occasione? How did you have to get two songs put in the TV series? It's because they like the album. So the people who make the TV show, they heard my album and they really liked it. And so La cosa più semplice, certo. Cioè hanno ascoltato il disco, gli è piaciuto e hanno messo le canzoni. Perfetto. Benissimo, forse in Italia non succederà mai. No, assolutamente no, non succederà mai così. In Italy it would never happen something like that, believe me. I'm in the music industry. Successo una cosa enough to understand that this is really something very peculiar and... It's not for Italy. Benissimo, di cosa possiamo ancora chiedere? Allora, noi ci eravamo fermati in Australia. We did stop in Australia. What happened after that? After Australia, I guess I came here, but I mean, there was quite a lot between Supernatural and Australia. There was I made two albums, one of which was Set It Free, which was a that was the follow-up to Supernatural. I wanted to make something that was much more orchestrated with a whole band, and so I had like 7 or 8 of my friends all played with me. E cosa successe dopo l'Australia? Anzi, tra quello che abbiamo detto prima, tra Supernatural e l'Australia, esistono però due album. Sì. Allora, uno di questi è appunto Set It Free. Con la band. Okay. E infatti desiderava avere un album molto più orchestrato. Certo. E Set It Free prese appunto la sua vita. Tra l'altro un disco molto particolare, sì, anche curatissimo, molto nella curato. Confezione, ha un libretto bellissimo all'interno, un digipack traente per gli addetti ai lavori. Spiega un momento, digipack traente. Allora, un digipack traente sono quelle confezioni di cartone, quindi molto raffinate secondo me, e apribile in 3 parti, un po' come erano io, sai, i vecchi album. Esattamente, di una volta. Esatto. Sicuramente il libretto, come dicevamo, curatissimo. Fatto molto bene. Mi pare, I think there was something about this album that has been given by hand to a lot of people. Yeah, but basically, like Unlit is a celebration of generosity and openness and is about trust. Allora, come giustamente diceva, anzi abbiamo chiesto, che c'è una storia anche su questo album che sembra sia stato portato a mano a molte persone. Sì, 250 dicono. 250. Allora, Jont giustamente diceva, come c'è stata per l'evento Unlit questo fattore di generosità e di contatto personale? In the same way I wanted to create, with Set It Free, I wanted to create an album that had the same values. E con Set It Free desiderava appunto creare un album che avesse gli stessi valori, li riportasse appunto nella generosità e nel contatto appunto personale. I created this thing called the game of CD sharing. E quindi creò questa cosa che si chiama il gioco di condividere i CD. So basically each CD comes with a visitor's book, and in the visitor's book there's space for 10 visitors. And you put your name and address in it, you fill in your first page, you fill in your page, and then after you've copied the CD onto your computer, you pass it on to someone who you think would like it too, who you can trust to pass it on to the next person. Ecco, la cosa bellissima qual è appunto di questo libretto di cui abbiamo parlato, esiste appunto questo, viene chiamato il registro dei visitatori, certo, dove tu puoi scrivere il tuo indirizzo sulla prima pagina, copiarti eventualmente il CD e darlo a qualcun altro che pensa, a cui pensi possa piacere, che a sua volta farà la stessa cosa, quindi questo CD passerà mano a mano e ovviamente avrà comunque un registro di chi effettivamente l'ha apprezzato, poi, perché giustamente noi siamo qua anche ad apprezzare questa cosa bellissima, insomma, che... C'è un critico inglese, si chiama Patrick McKirman, che ha fatto una recensione di questo disco, Set Me Free, ha scritto che tu continui ad a rendere più moderna la tua musica. This British reviewer said that you keep on up to date your music time by time. Well, yeah, I hope so. I think it's important for an artist, you know. Yeah, eh beh, insomma, è importante per un artista. Certamente. Lui diceva giustamente, insomma, penso, spero proprio di sì. Certo. Però c'è una cosa che in tutta la vicenda, Jont, mi riporta un po' forse ai nostri tempi, Maurizio. Dimmi. There is something about your whole... event, your artistry that bring us back to when me and Maurizio were young, back in the 70s. Perché, come posso spiegare, c'era lo stesso spirito un po' hippie. Sì, esattamente. Il viaggiare, il condividere. Hippie. Sì, sono hippie. Yes, it has a little bit of the hippie era, you know. Absolutely, yeah. To be together, yeah. To play here and there, just guitar. Tra l'altro, lui suona scalzo ai concerti. Ah, ho visto. You are barefoot. Yeah. Anche qua. So, questo fa molto Sandy Show, però insomma, è molto, molto, molto. Mi permetto di dirti, Vannuccio, no? Ieri sera, cioè sabato, abbiamo visto con Alberto il concerto. Graham Nash, mm-hmm, 71 anni, suonava assolutamente scalzo. Insomma. Quindi. Last Saturday there has been in Padua the concert of Crosby and Nash. Oh, cool! I love them. That was one of my first concerts I went to. Crosby. Ah, ecco, vedi. And I did a gig with David Crosby. Ah, incredibile! Insomma, è stato uno dei suoi primi concerti che ha visto, e ha fatto anche un concerto insieme a David Crosby. Ah, vedi. Il mondo è piccolo, vedi? Il mondo è piccolo. È molto brutto. The world is very small. It's a small world. So, cosa ne dite? Forse è il caso di ascoltare qualcosa? Dal disco. Sì, dai, ascoltiamo. Simple Life. Simple Life, ecco, me l'hanno suggerita giustamente, ma non ci vedevo, sono senza occhiali, tra l'altro. Allora, cosa dici, Agostino? Andiamo con Simple Life. Ok, l'ascoltiamo. Just right, nothing can get me down off my cloud. I get up and run around your town, feeling the earth beneath my feet, feeling the wind on my face and sun on the trees. Not a moment to lose, not a moment today, when I won't be in the right now. Can't you see what is really happening? You're standing next to me. Yeah. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Sono le 22.55 di questo lunedì 31 ottobre 2011, siete meglio dire collegati con Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente preferita, come piace dire sottoscritto, perché tra l'altro in questo momento vi sta regalando, come dire, un ragazzo londinese innamorato della musica che porta il nome di Jonte, e Maurizio Calzavara e Vannuccio Zanella stanno cercando di conoscere un po' di più e di regalarvelo musicalmente parlando, ma anche per scoprire un po' il suo aspetto, l'aspetto umano, che è sempre la cosa importantissima di questi cantanti, che molto spesso sono considerati chissà chi, in realtà poi sono ragazze, ragazzi, persone semplicissimi. Dobbiamo anche salutare Nino Destra che sta dandoti una mano. Grazie. In regia stasera, sì, no, sì, sì, incredibile. Ricordiamo anche i nostri numeri telefonici, Maurizio, se mi permetti. Vai, allora, vai. Il numero telefonico in studio è lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli sms, se volete chiedere qualcosa a Jonte, oppure anche salutarlo, fare semplicemente una dedica, perché no? Allora vi ricordo, è il 346 23 20 033. Vannuccio, Jonte sì, è andato dall'Inghilterra, è andato in Australia, è andato a Los Angeles, è andato in America, ma lui è fondamentalmente un inglese e si vede che è un inglese musicalmente parlando. Ma cosa dici? Si sente. Si sente, ma anche musicalmente parlando l'Inghilterra non è un marchio di fabbrica negativo, è un marchio di fabbrica positivo, secondo me. Insomma, l'Inghilterra ha dato dei nomi illustrissimi, no? Certamente. A questo genere, il genere della ballata, in fin di La ballata, ecco. Jonte parla di ballate. He makes ballads. Esatto. he plays ballads. That's where we were talking about your beginning as an Englishman, yeah. And yeah. That in England, in Great Britain, there's been a bigger history about writing ballads putting it all around the world, actually. I feel quite a connection to some Italian songwriters I've been listening to, like Lucio Battisti. Lucio Battisti, ok. Ecco. Sì, infatti dice, lui si sente anche molto vicino a dei cantautori nostrani, appunto come Lucio Battisti. Romantic and intense and then dramatic and, you know. Proprio nel romanticismo, anche nella capacità interpretativa di Lucio Battisti, nella maniera appunto di scrivere canzoni, to be a songwriter and a singer-songwriter, actually. Ma quello che potrebbe anche essere interessante è vedere poi l'esperienza americana. Certo, perché anche l'America, America too, had a lot of big storytellers. Yeah. What about your American experience? My American experience was an amazing time. I lived over there for... I mean, I've had lots of American experiences in a way, because I was born in England, but I lived in America from 6 months old till I was 4. Allora, ovviamente lui è in qualche maniera americano, perché da 6 mesi di vita fino ai 4 anni visse in America. È stato negli Stati Uniti. And then when I was 17, I traveled across America for 6 months interviewing American poets, because I was a nutter. I was very, very into American poetry, and I had dinner with Allen Ginsberg. E dopo i 17 anni viaggiò molto per l'America, proprio perché lui era molto appassionato della poesia americana, quindi avendo anche contatti con personaggi come Allen Ginsberg. E chi era Allen Ginsberg? Come l'hai trovato Allen Ginsberg? Come l'hai conosciuto? He was amazing, very humble, very generous. He told me everything I wanted to know about the beat. You know, I was 18, so I just wanted to talk about Jack Kerouac and William Burroughs, and he talked about everything, and then talked some about Zen Buddhism. On the road, yeah. On the road. E giustamente lui diceva, ha trovato Allen Ginsberg veramente un grande, come posso dire, una persona umile, una persona che comunque ha risposto a tutte le domande che gli poneva, e lui da diciottenne era ovviamente estasiato da questo personaggio straordinario di Ginsberg o di Jack Kerouac, e tutti i personaggi della Beat Generation. You know Jonte, there is an Italian let's say she was a very good writer. And she died not a long time ago. Her name was Fernanda Pivano. Mm. And she translated all the Italian, all the American Beat Generation. Really? Okay. Yeah, and she was very close to a lot of Italian singers, because she wrote liner notes for albums, for let's say, ha scritto la Fernanda Divano, ha scritto le note di copertina di tantissimi dischi, certo. Autori italiani, per esempio per Fabrizio Leone, che ha collaborato con molti, Tito Schipa mi ricordo, Alfredo Cohen, quindi tantissima gente che hanno avuto dei contatti con la Beat Generation. Forse this is also a little bridge from, you know, UK and Italy, America, you know, everything is a little bit connected around the world, e stavo dicendo che appunto c'è un ponte che collega un po' tutto quello che succede in Italia, in America o in Inghilterra, and I think the real link is the music and how you make it. Yeah, absolutely. In fact, I've got an idea for a song, seeing that we're talking about the Beat Generation and poetry and stuff. E proprio da questo ho avuto anche un'idea, mi diceva, per una canzone che appunto parlerà della Beat Generation. It's not. Yeah, you might like it. Should we play a song? Should I play a song? Potrebbe essere un'idea. Sentiamo subito. Come no? Yeah. Ben volentieri. Chiamo quando momento, or when the time comes. Quando arriva il momento, when the time comes. Journalists laughing in their own funny way about mistakes people make. A loose shoelace will trip you up, my friend. True love will never end, it's just a bullet you send into a random playpen filled with dinosaurs and electric seesaws flipping. Dust from the ceiling and rain that's a dripping, making a springtime cavalcade brighter than the blast of your World Trade air raid, but bigger than the last, cause you wanna get better at this trick you learned from a clown in the theater. Yeah, making love to an overcoat on a coat stand must be holding a real hand. He's holding a real hand when the time comes. When the time comes, hope you're holding a real hand. All cracks in the pavement are sent by your government. Spine, you're pissing if you're missing, you're in trouble again. Getting your shoelace shiny, slippers with slides into the crack where they pull you down and meet the clown who's dealing out a round of cards for your people. You got turbans on, your hands are swelling like treacle. Well, just when you see the white of his eyes, yoke of a man's hand grabs, he says, do you understand the rules of the game you're undertaking? You can win, you can lose, there's no forgetting. There are notes on this disc that'll start skipping, but if you're not clean and shiny, there's no forgiving when the time comes. When the time comes, I hope you're holding a real hand. When the time comes, when the time comes, hope you're holding a real hand. There were 15 people at the table with me. I saw them disappear 3 by 3 by 3. They were lying all their lives in a lazy bed of warm caress. Fake fur unraveled, don't need to tell you the rest. Temptations, a nation always at war, saying, what else are all those fields for? When the time comes soon, well, you, my friend, it's not just round a bend, it's the road you drive, now it's a day. And the time comes for your lines to be learned, toast not to be burned. You wanna be certain, the time comes, your fines to be paid, coast to be cleared. You wanna know what's behind the curtain, the time comes, your door to be open, inspection commence. Time comes, the judging of the jam jar contest. Time comes, you put on a coat for once. Shuma, not just another can of Coke for once. The time comes, you'll be screaming in your sleep. The time comes, it'll be driven in too deep. The time comes for you to make your stand, to tell you this, hope you're holding a real hand. When the time comes, holding a real hand. Now how the time comes every day, my friend. Time comes every day, my friend. Time comes for you to make your stand. I hope you're holding a real hand. Fino all'ultimo secondo, Annuccio, perché non si deve mai tagliare neanche l'ultimo secondo. Ma ci mancherebbe. Esattamente. Le armoniche di una corda di chitarra non si possono e poi, sicuramente. Come l'hai suonata in modo particolare? Come mai l'hai suonata così in modo particolare questo pezzo? Che odora un po' di blues, secondo me. Non so se sei d'accordo, John. It's very bluesy, this song. So it has been played in a very special way. Yeah, I don't know where it came from. And also, when that's how I started doing this sort of like tapping this thing, and it was like, It's a sort of finger picking, something like that. Yeah, una sorta di finger picking. It's the one song I can play when people go like, oh, he can play the guitar. All the other songs, everybody's like, oh right. Bellissima, perché dice è la canzone che suono di solito quando così faccio dire alla gente, oh, ma sa anche suonare la chitarra. Ah, per quello. È piuttosto importante. Esatto. It's always very important to show whatever we can do. Yes, exactly. In all aspects of our life. Exactly, in tutti gli aspetti della nostra vita, giustamente. Ci ricorda John. Parliamo invece, torniamo un attimino al nostro posticino qua, perché poi John, vedo che è attorniato da amici che venuti. Sì, certo. Sono a lot of friends here, and all from Padua, almost all, I guess, because it's my Padua family. Ecco, parla proprio della sua famiglia di Padova. Ci sono amici anche da un po' più distante. Some friends came here from further than Padua, a little further than Padua. But yeah. Anyway, you are here. What link you to Padua? I played here a couple of times, but the reason really is. I played songs at my friends Dario and Daniela's wedding in Sicilia, and so since then I came here. But also what's interesting about Italy for me is that I have some friends in Genoa as well, people who like my music in Genoa, and they've helped me organize gigs there, and I've also got some friends down in Rome and some friends in Urbino and some friends in Tuscany. So I've got this whole tour that's been organized by people who just really want me to come and play my music here, which is a really nice way to tour. Absolutely. To stay with my friends. Diceva lui in Italia ha moltissimi amici oltre che a Padova, e questi gli hanno in qualche modo organizzato questo piccolo tour. Proposto questo tour da fare. Queste piccole cose da fare, e ovviamente in questo modo diventa anche molto più piacevole. Certo. Poi, quindi non hai solo girato l'Inghilterra, l'Australia, gli Stati Uniti, ma hai girato anche l'Italia, questo è importante. So you have been not only, you didn't only have a trip in Australia, United States, but also Italy. You have been around Italy. Absolutely, Okay. I hope you don't like only the food from Italy. Oh, I love the food. Okay, but not only. Not only, I love the grappa too. Okay. Ecco, non solo il cibo è apprezzato, ma anche la grappa. Ecco, questo avevamo capito benissimo. Mi sembra assolutamente un discorso interessantissimo. Insomma, anche questa fa parte. Fa parte, è una nostra caratteristica, anche questa. C'è chi va in America per prendersi il cheesecake, e noi abbiamo gli stranieri che vengono a mangiarsi. A bere la grappa. E mi sembra assolutamente corretto. Allora, dopo queste piccolezze culinarie, no? Io vorrei anche sottolineare una cosa. Blu Radio Veneto è stata una radio che in qualche maniera ha introdotto, per quanto possibile, Jont in Italia, programmando per addirittura un mese un brano di Jont. Blu Radio Veneto has been one of the radio stations that brought you to Italy somehow. Absolutely, yeah. Broadcasting for 1 month one of your songs. And this song is very special because it talks about 36 oysters. Sì. What can you do with 36 oysters? 36 oysters, you can get, I don't know, I mean, you can get very... you shouldn't eat 36 oysters, not on your own. With a shell? Possibile. No, allora stavamo scherzando sul titolo della canzone, che è 36 ostriche. Ostriche, quindi esatto. Cosa si può fare con 36 ostriche? E John giustamente dice prova a mangiarle. Certo. Io ho aggiunto prova a mangiarle anche con la conchiglia. Però, beh, forse non sarà così quando la ascolteremo. So can we listen to the song? I'll play you a song, an acoustic version of it. That if you like. Would be wonderful because we are used to the album version. Okay, cool. Blue Radio. Well, I met you at the party. You were flying, so was I. I said, why not? You said, where to? I said, if you'd be so kind, can I take you to the fire while the sun comes up again? Can I hold you while it's quiet till the storm is deafening? Yeah, follow my heart, never my head. So we met up 2 days later at the French house for a drink. Got there early. So we met up 2 days later at the French house for a drink. Was hoping you'd be nice, not expecting anything. Then you came in and you kissed me, and I knew that you were cool. And I got quite excited about the things we might do. Follow my heart, never my head. So we met up the next evening. I was dressed up like a prince. Got there early, ordered oysters. Man, she gave me 36. Yeah, I wasn't really meaning to be so full on so quick. It just happened, cause I trusted what I felt when we kissed. Will I follow my heart? Never. Follow my heart until the end. Well, I'm not gonna tell you how my bubble burst in a bit, but you kind of had some other romantic attachments. So now I'm walking down a street and I'm shouting out in pain. Here I can't believe it, and the storm is deafening. But I follow my heart, never my head. Follow my heart. That I really live. Thank you. death. Just checking out the dust that was floating above my head. And though I couldn't barely raise an eyebrow all the time, you're inside, I kept repeating, I love life. I love life. I love life. I love life. Posso dirti una cosa, Vannuccio? Quando ci si innamora di un pezzo, io ed Alberto ci siamo innamorati di questo pezzo, e quando si ascolta, si continua ad ascoltare e ci piace sempre di più, si fa sentire continuamente perché è troppo bello, è bello, significativo, un album con una band, quello è importante da sottolineare. Ah, assolutamente, beh, insomma, d'altronde parlare di Austri che non poteva essere afrodisiaco. Esattamente, no? È molto afrodisiaco, poi è molto folk, un folk però riveduto e corretto da lui. Well, we started talking about that the oysters are very aphrodisiacs, so that's why they are in love with this piece. Where are the oysters now? We need some oysters here. Well, only later. Ma diceva Maurizio was saying that they really felt in love with this song. Oh, brilliant. That's why they keep on playing it, because it's a very beautiful song. I'm so glad. And it's very long as well for radio, so grazie. Okay. anche questa è una cosa da tenere in considerazione, no? Quando un brano è troppo lungo le radio tendono a tagliarlo. Noi no. Bravissimo. Noi no. Questo onore al merito, sicuramente. E niente, continuiamo con il nostro viaggio attorno al mondo. Quindi, se ben ricordo, if I remember correctly, John, you've been in the States also on 2004. Sì. And you started there. Yeah, something. I had an amazing manager, friend, helper there. I had an amazing manager called Tony Milant, who was a sort of genius, inspirational character, and he introduced me to another manager in America, who was Tom Petty's manager, and he was my manager for 2 or 3 years. So I lived out there making music for 2 or 3 years. E quindi, insomma, ovviamente personaggi interessanti, perché appunto in America conobbe questo manager che poi lo introdusse al manager di Tom Petty. Tom Petty, quindi personaggio di grandissimo spessore. Ragazzi, insomma, stiamo parlando del Tom Petty at Breakers, noi di una certa età, Vannuccio. Esatto, conosciamo bene. Conosciamo bene. Conosciamo anche la ex moglie Stevie Nicks. Anche quello, tutti, no? Quello è un altro par di maniche. Conosciamo un po' tutti. Esatto. Conosciamo un po' tutti, siamo proprio familiari con tutti, direi. E appunto diceva questo gli ha permesso di restare in America per molto tempo, insomma, e quindi e tra l'altro la cosa interessante, what was most interesting that you said is that luckily you found a manager that was an inspiration for an artist. Yeah, sometimes it's quite the opposite, they are struggling with the artist. Yeah. La cosa interessante è che questo manager è stato invece una fonte di ispirazione, cosa abbastanza rara, perché di solito invece si tende a essere abbastanza litigiosi con manager con gli e artisti, no? Per cui, insomma, penso che anche da questo venga fuori poi tutta la carica umana che sentiamo, insomma, la trasmette perfettamente nelle canzoni. Ah, indubbiamente, qui tu l'hai conosciuto, hai sentito dal vivo recentemente a Cittadella, sì, esatto. Ha fatto un concerto splendido, e qui nella porzione di concerto che sta facendo adesso si sente il suo pathos, si dice così, no? Esatto, pathos, cioè esatto. Dare qualcosa agli altri, gli altri siamo noi qua dentro chiaramente. Beh, insomma, e quindi tutti gli ascoltatori. Sia non esattamente. Gli ascoltatori a casa sicuramente apprezzeranno. Certamente, certamente. Quando noi. We were saying that I had a chance to listen to your concert in Cittadella, and so I could tell that how you are able to make other people feel the emotions and what you like to send to people, and that's what we are feeling here tonight, and also we are sure the listeners of the radio are feeling too. Oh, so, cool! Fantastic. Well, I mean, it's the aim of an artist. Yeah. È esattamente lo scopo di un artista. Io invece no volevo chiedergli del disco Set Free con la band, gli arrangiamenti come li hai orchestrati, come li hai studiati con la band? How do they choose, or you choose, to have this special arrangement with the band for the album Set It Free? Well, for Set It Free or for Hold Again, I mean, I was the same band for both of them, really. And I don't know, I think it's quite organic process, really. With Hold Again, I tried to make an album that was somewhere between Supernatural and Set It Free. So Set It Free, as you heard with that song Simple Life, and with the song 36 Oysters, it's like a really full arrangement. And Supernatural is very, very acoustic. With Hole Again, I wanted to make something that was had the sort of balls of a full band arrangement, but had the intimacy of Supernatural. Allora, lui diceva che Set It Free è stato veramente orchestrato, anche se è venuto anche questo molto naturale, l'orchestrazione e gli arrangiamenti. Ma aveva introdotto anche, invece, parlando dell'ultimo sì, album Hooligan. No? Di Hooligan, dove dice in qualche modo Hooligan si pone a metà tra Supernatural molto acustico e invece Set It Free, che molto era orchestrale, per ridare in qualche maniera essere un po' un ritorno agli origini, dare una migliore immediatezza. Ho capito. Al messaggio che si vuole trasmettere. Beh, visto come è andata fino adesso, sentendolo voce e chitarra, non poteva esserci scelta migliore. Assolutamente. Giusto? Benissimo. Io direi che possiamo andare ad ascoltare allora questo nuovo album. Questo nuovo album. The song we choose is On My Way. On My Way, yeah. On My Way. Allora, scegliamo On My Way da questo nuovo album di Jont, che si intitola Hooligan. Had me down and out, broken like a bottle. It lost its message and was filling up with sea weed. You had me sinking, headed for the bottom. Lost our feeling, I didn't feel like me. One day I just had enough. I said, today I am waking up. Now the morning sun sends me tumbling. Yeah, now the morning sun sees me tumbling on my way. Well, it's all we can do. Take each day, make it. Slip right by you. Waste your days holding a weight which doesn't bring anything. But now I can see it, so I'm gonna make this day the final. Farewell parade to all. Are these thoughts spinning my way? Oh, hey, hey. just get to my heart. You say today I am waking up. Now the morning sun sends you tumbling. Allora, abbiamo sentito questo pezzo dal nuovo album, giustamente come tu dicevi, Vannuccio, e diceva anche Jont, e questo nuovo album è un compendio tra le istanze della band e le istanze solista, praticamente. Beh, sai, sembra anche giusto che poi si aggiusti il tiro, no? Mano certamente, con il tempo si aggiusta il tiro e probabilmente la direzione che lui adesso deve prendere, vuole prendere. Molto probabilmente anche derivante dalle esperienze che ha avuto. Ma c'era una cosa interessante, secondo me, dimmi, che si poteva ancora chiedere, certo, a John. Beh, abbiamo tempo fino a mezzanotte, quindi abbiamo molto tempo. Abbiamo tempo. La cosa interessante era, che io spesso ho sottolineato anche nelle trasmissioni che facciamo insieme, Maurizio, che è il fattore compositivo. Certo. Cioè, persone possono essere dei bravissimi esecutori, dei bravissimi cantanti, eccetera, ma spesso e volentieri troviamo al giorno d'oggi che c'è una grossa difficoltà a trovare delle belle canzoni. Peccano in composizione, dice. Peccano un po' in composizione, e non è, direi, il caso di John. Le canzoni sono tutte molto belle, sono tutte molto... Per cui era interessante magari chiederle sia come nascono queste canzoni, questo è chiaro, sia da un altro punto di vista quante ne scarta. Ah, ecco, quello è importante. È una cosa che... John, we were wondering about... I usually underline an aspect of the artistry. That is that there are wonderful performers, there are wonderful singers, there are a lot of wonderful musicians, but mostly what's mostly forgotten is how to make a song, how to write a song. And in your case, all the songs we heard and from your album as well are really beautiful songs. So very well composed, very well written. So we can understand that most of them comes from your experience, the way you melt what you feel with the music you play. But we were wondering, it's almost a joke, how many songs you take off, you don't like? So okay. how many tries you do? That's a very interesting question. I think... normally, basically, I would say most songs that I get to the end of writing, most songs that I write end up being ones that I like now. In the past, when I was younger, it would be, I was so keen, that basically the writing songs is like a drug. It's like a very, very exciting drug. Allora, giustamente dice che scrivere canzoni diventa quasi una droga. And... so when you if you haven't done it for a while, then you really want to do it again. And so sometimes when you're younger, you'll be like, oh no, this one's really good. It's really, really good. dice appunto, quando sei, soprattutto quando sei giovane, qualsiasi cosa scrivi dici questa è bellissima, questa è bellissima, insisti su questo. But actually it's a load of old rubbish. Ma nella maggior parte dei casi è veramente, lui dice, proprio immondizia, quindi, quindi non si risparmia nel commento. Because, but you just want to have that feeling again of writing a song, but what you need to, what you, when you, as you, when you get older, you learn to just accept with some sort of humility, they just come, the songs just come when they arrive and then you, when they arrive you're like thank you so much and you really enjoy it. E quindi dice invece con la maturità praticamente ti rendi conto che quando arriva la bella canzone veramente ringrazi il cielo per la bella canzone che è arrivata e che quindi poi va definitivamente a finire su un disco. So therefore normally nowadays if songs arrive then they're good because I'm trying to just let them just arrive. If you see what I mean. I mean it's not always, sometimes, but you know, in general. No, abbiamo capito bene, dice, in questo momento più che avere l'irruenza di scrivere, aspetto che arrivino. In qualche modo arrivano. Beh, posso dire perché l'ho visto scrivere un paio di canzoni negli ultimi giorni che era qui, insomma, per cui I saw you writing a couple of songs while you were here these last days. So I mean it's been quite intense. Last couple of days has been quite intense. Sono stati molto intensi appunto gli ultimi giorni. Quindi it's not always like that. That's quindi è un criterio di che la canzone sia bella, sia perfettamente che a lui piace, allora praticamente la canzone va bene, se no la mette da parte, questo è il motivo. Che sia costruita perfettamente secondo i suoi dettami, oppure no, una cosa emotiva. I think you were saying that the song must be emotionally involving you to be a good song. You know, yeah, or Ezra Pound, who lived in Rapallo during the war, said only emotion endures. So, you know, and I agree with that. Ah, giustamente dice, insomma, che come diceva quando ha vissuto a Rapallo, effettivamente se non hai l'emozione non puoi essere cantautore come lui, esatto. L'emozione è la base di tutto, no, secondo me. Esattamente. Cosa facciamo? Suoniamo qualcosa, vuoi suonare qualcosa? One more song. Ok, yeah, okay. Yeah, yeah, song. I'd love to sing a song, yeah. I sing something, I'll sing a... Maybe I'll sing a nice little quiet love song from Hole Again and then we can play a song from Hole Again after that or something. Allora, il titolo ve lo diciamo dopo. Comunque è una canzone dall'ultimo album, è sempre una canzone d'amore di Jont. A song called Paper Cup. Sing it for Nikki and Sylvia, who are my good friends, and they exemplify the values of this eternal love song. Basically, I couldn't do it without you. Basically, I wouldn't get through it without you. Can't you see? I only know one way home. I don't wanna go alone. You're coming with me, 'cause I would fold like a paper cup without your love to hold me up. I don't want a love that is just enough, so I'm giving you all I've got. We'll be there when the clocks stop. We'll be there when the clocks stop. Basically, I've never had anything like this. Basically, you're the only one I want to kiss. Can't you see you and me there at the end? whatever is round the bend, I don't want to miss, 'cause I would fold like a paper cup without your love to hold me up. Yeah, and I don't want a love that is just enough, so I'm giving you all I've got. We'll be there when the clocks start. I would fold like a paper cup without your love to hold me up. I don't want a love that is just enough, so I'm giving you all I've got. Yeah, we'll be there when the clocks, we'll be there when the clocks stop. We'll be there when the clocks stop. Cosa posso dire, Vannuccio? Possiamo dire niente. Io è la prima volta che sento questo pezzo, assolutamente, è un disco nuovo. Nel parterre qua dei Roi hanno detto: questo è il disco nuovo, secondo noi è il miglior disco che ha fatto. È difficile chiedere a un musicista: il tuo ultimo disco è il migliore che tu hai fatto, però allora, cosa dai, dici? Ma sicuramente quello che hai sentito, te ha sentito, e sicuramente le canzoni sono magnifiche, senza ombra di dubbio. Dopo, cosa vuoi, un artista penso ti dirà sempre che l'ultimo disco è il migliore che lui ha fatto, chiaramente. Lui giustamente fa parte di un'evoluzione, e quindi se non ci sono stati grossi problemi nella stesura dell'album, effettivamente dovrebbe essere così. Però questo pezzo ha emozionato molto, una canzone d'amore però molto intimista, sussurrata quasi, volutamente sussurrata. Beh, è stata cantata anche splendidamente, certamente. Voglio dire, è passato veramente tutto quello che doveva dire. We were saying that this is a real whispered song. It's a really sang on the tip of the fingers, you know, and played as well in such a special way. So it, even if a lot of people may not understand the lyrics, actually you can tell it's a love song. You can tell from the way. Dicevo, anche se magari molta gente non avrà capito il testo, effettivamente si sente che è una canzone d'amore. Certo, non c'è dubbio, insomma. Chiaramente, così, so proprio il modo di cantare si è sentito immediatamente. Bene, cosa possiamo chiedere ancora? Io ho una domanda da fare. Ecco, Agostino, vai. Io voglio sapere come nascono le sue canzoni, cioè da cosa le fa, come dire, vivere, come le costruisce, come le scrive. Again, Agostino is asking how these songs comes out. I mean, they are so intense that it's hard to think that they don't have a special story behind. Almost all of them. Well, no, all the good songs I've ever written come from intense emotional experience. Ecco, giustamente dice Agostino, questa è per te, dice che qualsiasi buona canzone deriva comunque da un'emozione molto intensa che si è provato. Quindi i suoi dischi sono tutti intimistici. He's still asking, all your records are very intimate things. It's interesting. I don't think, I just think of them as just, they're just a reflection of things I have felt. So, but, and if they're true, there's something about, like, I guess what I quite like, what I have liked doing, I feel like my writing's maybe changing a bit now, but what I have liked doing is just saying things as truthfully and honestly as possible, but because it's true, it's not cheesy. Ok, allora guarda, dice che la cosa più bella è che comunque le canzoni che lui scrive sono così sincere, così piene di verità, che effettivamente sono quelle che sente, sono quelle grosse emozioni che prova e che giustamente trasforma in musica e parole. Possiamo dire una cosa dell'etichetta? L'etichetta è sua, personale. And that's your own label, So you're a very independent. Yeah, I've made them all the records myself. And I've, in fact, the main thing, if people want to buy my records, the best thing is to go to my website and there is a Jaunt shop. And you'll get sent CDs, downloads, anything you want. Just go to the as much. That's how I run my label. Ecco, giustamente è una sua. Lui è la sua etichetta. Certo. E chiunque volesse comprare i dischi, eccetera, li può facilmente trovare sul suo sito che è www.jaunt.com. Vuoi ricordare qualche nome della band se che ha suonato nell'ultimo disco, qualche musicista che ha suonato assieme con te nell'ultimo disco? Would you like to recall some of the people that played with you in the last album? Yeah, we're talking about the people in the band. Yeah. There's the band are actually a great bunch of people. There are two brothers, the drummer and the keyboard player are both brothers. Ci sono due bravissimi musicisti, il batterista e il tastierista, che sono due fratelli. And it's Ben and Spencer. Spencer and the bassist and the drummer, the rhythm section, are in a band. So they're in a band from Oxford called A Silent Film. E il bassista e il batterista sono in una band di Oxford che si chiama The Silent Call. A Silent Film. Silent Film, sorry. Yeah, no, and Ben is playing in a band called Little Fish, which were on Linda Perry's label Custard Records and are now independent and making a record with Gaz Coombs from Supergrass. E anche invece Ben il tastierista sta suonando in una band che si chiama Little Fish e che esce anche loro per un'etichetta indipendente. Okay. And my friend Tom Aitkenhead, who produced the record with me and recorded it and engineered it and mixed it, he made the Ben and Jason. I don't know if you remember Ben and Jason. He made all the Ben and Jason albums and has worked with various different people like the Guillemots and stuff. E anche il produttore appunto che ha lavorato con lui, che ha coprodotto il disco, è un ingegnere del suono che poi ha lavorato appunto con Ben and Jason. Sì. Quindi okay. Molto molto interessante, insomma, sarebbe bello questi miscugli un po' strani. Sì, questi collegamenti. Questi collegamenti, chissà perché mi hanno ricordato i Toto, no? Questa storia dei due fratelli. Esatto. They remind me of Toto, that there were two brothers playing. Oh, right, you know. Somehow. I'll tell them that. Dunque, sono le 23:42, cosa dici? Un altro pezzo da album, cosa dici? Sì, dai, questa volta facciamo una cosa un po' diversa. Mm. Almeno nel titolo, at least in the title of the song, this one it doesn't look like a love song because the title of the song is Wild Beast. Mm. So it's not a love song. It's not a love song, no. Definitely. No. So quindi ascoltiamo invece questo brano, sempre dall'ultimo disco di Jaunt, Hooligan. Sì, dobbiamo dire anche questo pezzo che adesso sentiamo è già in classifica al 10° posto nella nostra classifica, la classifica di Alberto Pisco di Rockwave. Benissimo, allora per la cronaca, this track, Wild Beast, is already in the charts of Blue Radio Veneto at the 10th position. Fantastic. From Rockwave, thanks to Alberto Prisco, that is the conductor of the Rockwave charter. Ascoltiamolo anche noi, okay. Allora, intanto, Wild Beast. Down your street like some wild beast again. I want someone's blood to cook up on my heart, and then I'm gonna choke it up. Oh, what a waste. Can't remember your name or face. Just spewing in the dark. This taste reminds me of a feeling. Whole again. Why can't I be whole again? In that garden so pure, we don't need for a cure. Years just trying to be learning it. I got dressed up, knocked down, worn out, spat out because of it. Should have given up my desire and hope, but I lifted up that telescope to my blind eye. Said, let's go to war, not waiting for nobody. again? Why can't I be whole again? In a garden so pure, with no need for a cure, and no pain to win. Cause the other part of you is me. I'm so divided. You paint a picture on my back and I could never find it. Hey, something out there but you just can't find it. Gli ultimi minuti, Maurizio. Sì, peccato, sono gli ultimi minuti. Tutto dal vivo, 23:47, quindi in perfetto orario, tutto dal vivo. Questa è Blu Radio Veneto, questa è la voce di Agostino con Maurizio, ma soprattutto con Maurizio e Vannuccio. Grazie a Vannuccio, stasera ha fatto un lavoro meraviglioso, ha fatto un lavoro meraviglioso. Abbiamo Jont. Possiamo dire questo, Vannuccio, di questo pezzo. Lamond, c'era Lamond, un pezzo... Un hit single, possiamo dire un hit single. Sai, abbiamo ricordato un po' tutti i nostri vecchi vecchi. Esatto, no? Noi abbiamo una certa età, ragazzi. Sì, esatto. So. Lamond ci stava benissimo. Indubbiamente. Però vedi, è anche bello questo. L'eclettismo delle persone. Noi l'abbiamo sentito nelle canzoni d'amore, l'abbiamo sentito con l'orchestrazione, l'abbiamo sentito nella semplicità di Supernatural, no? Però senti questi brani e dici. Effettivamente c'è una completezza nell'artista, vedi anche il discorso è non aver paura di rischiare, perché poi uno magari si crea una sua fama di cantautore voce chitarra, di cantautore semplice, che può essere Che però, come vedi, può essere allargata a dismisura dal talento. Questa è un'altra faccia sua in questo pezzo. È molto bella, decisamente. We were talking about Wild Beast. That sì. Usually, you know, people, the audience can get used to have a singer-songwriter, just a voice, a guitar, sì. Or very simple love songs. While in this case, you really show all the potential of a good song written and arranged and produced in a different way, which is still a wonderful song, even if you do not expect something like that from after we, for example, we heard Paper Cup on guitar and voice. You know, this is a beautiful song. This is a beautiful single, and I'm sure. I'm just trying to play the stuff I like listening to. So I like listening to intense, emotional, quiet love songs, and I like listening to other, you know, so. Sì, giustamente John ti dice, insomma, uno vive effettivamente la canzone per quello che è. But what we want to underline is that you dare to try new things. I mean, that's what an artist should do. A friend of mine said that the difference between... Maybe if I was more boring, I'd be more famous. But, you know, you never know. Maybe everything can happen in this world, actually. Tutto può succedere a questo mondo, perché lui diceva, quando ero un po' più calmo, molto probabilmente ho avuto più successo. Ma questo non significa... Assolutamente, però l'idea di fare questo pezzo così propositivo, così potente, che dà giustamente apre la finestra dell'album, è venuta subito, immediatamente, oppure è stata ponderata? The choice of opening this album with such a powerful song has been done on purpose, or? Yeah, well, I mean, I just think it's. I think it was just the order for the album was very, very simple. We finished mixing the album. I went back home. I got home about 6 a.m. I listened to it. I put it on my Mac. I put it in an order. Okay. I woke up the next morning, I listened to it, I was like, yeah, that's the order. Beh, dice che è stato molto semplice scegliere l'ordine dei brani. Dei brani, in quanto una volta finito il missaggio, portandolo a casa, lo mise nel computer con una certa successione. La mattina seguente, riascoltando, ha detto, beh, questa è la successione perfetta. But what I was saying is that a friend of mine used to say that the difference between an ordinary man and an artist is that an artist never stop trying. Quello che diceva un mio amico, no? Diceva, sì, la differenza fra una persona normale e un artista è che un artista non smette mai di provare. E quindi molto probabilmente questo è veramente un riflesso di quello che abbiamo sentito questa sera, quindi non aver mai paura di fossilizzarsi in qualche modo negli schemi in quanto sono stati di successo. That's what we were underlying, that you never how can I say it? Locked up, you never locked up yourself to a scheme just because it was successful. You have been trying something else. I keep trying. That's it. On and on. E proprio da questo, allora, noi vorremmo invece far sentire un altro brano. John ci ha confessato che è un brano inedito, completamente. Perfetto. Inedito. This is an unreleased song. It has been written only very little time ago. I wrote it on the plane coming here. Without a guitar, and then they lost my guitar, so I couldn't play it for a while. Allora, siccome sull'aereo avevano perduto la sua chitarra, non ha potuto suonarla, però in fin dei conti è nata sul viaggio da Londra in Italia, quindi la settimana scorsa. Certo. Per cui, insomma, siamo anche i primi a sentirla in qualche modo, e siamo molto grati. We are very grateful to have this honor. And it's also a song for my friend Nigel, who's the producer, Nigel Abermacy, who I made Set It Free with. And it's a song about, basically it's about our time making the record, and, you know. Ah, bellissima, yeah. Anche questa, è una canzone che è dedicata al produttore di Set It Free. Ed è la canzone che parla appunto del tempo che loro hanno, che hanno avuto insieme nella produzione di quest'album. What's the title? Well, the title, in fact, if you could just translate the chorus for your listeners, that'd be really nice, because there's lots of words, so I know how difficult it is to understand everything. Ok, allora mi chiede se posso tradurre qualche momento, qualche momento del brano, perché insomma è interessante. We had our time and it was great. Abbiamo avuto, siamo stati insieme quel tempo ed è stato bellissimo. And I love that record we made. E mi piace moltissimo il disco che abbiamo fatto. And if all the world never hears it, I would make the same record again. E se anche il mondo non dovesse piacere, io farei lo stesso disco di nuovo. Blu Radio Veneto, il Veneto come non l'hai mai sentito. Turned up your studio one morning when it was friends at first sight. Put the kettle on for coffee and we started to write. First one just came out easy. By 4 we'd got a couple down. Whatever you're doing in life, it's exciting when things just work out. Ah, we had our time and it was great. And I love that record we made. And if all the world never hears it, I'd make the same record again. The same record again. All the Bowie vids up on YouTube that we watched during lunch, and your ridiculous jackets and hats that each day I try to trump. The day that label came to see us, man, we really cared what they'd think. And all the times we never went to the pub, cause we were making something. We had our time and it was great, and I love that record we made. And if all the world never heard it, I'd make the same record again. The same record again. Yeah, the other day I was meant to tell you, I was in France doing this gig. The PA had broken. Yeah, I was just wandering around the tables, trying to be intuitive, playing songs to two people at a time in a busy bar on a Saturday night. Sounds like suicide, but by the time I was halfway, yeah, they were all on my side. They sang, gonna follow my heart, never gonna follow my head. Yeah, I wish you'd been there at the end. And they all just cheered. Ah, we have our time and it is great, and there's always a record we make. If all the world never heard mine, I'd make the same record again. The same record again. Cause all these discs turn to dust, you know, and all these bites are a blip. What matters is how you do it and who you're doing it with. We haven't seen each other for a while now, but we know that's just one of those things. Comes when you're saving society with the magic a Moog can bring. Yeah, we had our time and it was great. I love that record we made. If all the world never heard it, I'd make the same record again. The same record again. We have our time and it is great, and I love this record we make. And if all the world never heard mine, I'd make the same record again. The same record again. The same record again. No, non c'è niente da dire. All in all, it's another love song too. Bellissima, bellissima. In a way, in this case, in questo caso, devo dire che è una canzone d'amore, effettivamente, per la musica, insomma. Certo, esattamente, dedicata al suo produttore. E non è una cosa molto usuale in Italia fare queste cose. Neanche all'estero. All'estero. È vero, neanche all'estero. È un caso abbastanza raro, quello di John. Sono abbastanza abituato a ricevere le esatto. critiche. Dimmi. Other gigs, I do have some other, I've got a whole tour of gigs. Exactly. E allora, visto che insomma ci stiamo appropriando certo. ormai alla fine, sarebbe il caso anche di parlare di quello che farà Joint in Italia certo. in questo momento. What about your next gigs? La Clac in Genoa, the big theater in Genoa on this Wednesday. Allora, il prossimo mercoledì sarà a Genova al teatro La Clac. Tana del Lupolo and Cavi de Lavagna on venerdì. Quindi a Cava di Lavagna venerdì alla Tana del Lupolo. Urbino, the details are Urbino. Urbino. On sabato, and then Von Clare in Roma. Basically, all the details: Roma, Urbino, Toscano, and then Genoa, due tempo. All the details are on my website or the Facebook. Allora, continuate comunque a vedere il suo sito internet dove ci sono tutti i dettagli del concerto, vale la pena di andarlo a vedere, sono il primo a poterne testimoniare la bravura, per cui ricordo il sito www.jont.com e niente. Se uno volesse acquistare i suoi dischi, lo stesso può farlo nel sito. If someone want to buy your records, they can do it on your website. Yeah, John Shop. I mean, I'm on iTunes, but also the best for me is best for is to go through my record label on the Jont. If you go to my website, jontnet, jontnet.com, jontnet. Okay. Mi intrometto un attimo. Mi chiedono di far ripetere le date perché forse non sono state recepite molto bene. Allora, vediamo se me ne ricordo io. Allora, mercoledì sarà a Genova, mercoledì prossimo è a Genova al teatro, what's the theater in Clack, La Clack. La Clack, really a cool, Genova. Very, very cool theater. Yeah. Poi abbiamo a Lavagna, quindi a Urbino. E sabato a Roma, se mi ricordo. Comunque ricordo, andate sul sito, non ci sono problemi sia per vedere sito, le date, www.jont.com Jontnet, scusate, colpa net. Mia, jontnet.com per gli italiani. E, cosa dire? Io volevo un po' ringraziare naturalmente Jont per la sua presenza, ringraziare Blu Radio Venere per essere sempre squisiti. Volevo ringraziare due persone che ci hanno seguito e che sono Giancarlo e Mirko e anche due amici dall'Inghilterra che ci stanno seguendo in streaming, quindi a big hello to Colin and Rob that are following us from Brighton, UK. Non volevo ringraziare te, Vannuccio, della traduzione e dell'aiuto insostituibile per questa puntata. Grazie. E ringraziamo il nostro direttore artistico, grazie a lui anche stasera sono Nino anche Nino che ha dato una mano notevolissima. Io saluto Jont da parte di Laura, Stella ed Enrico che ci stanno ascoltando. Ok. Something else to add, Jont? I'd just like to say thank you very much to everyone at Blu Radio who are incredibly supportive and friendly, and I appreciate it very much. And also, obviously, to my family of friends in Padua, who I love staying with, and thank you for organizing my gigs here. E quindi Jont ringrazia Blu Radio Veneto e ringrazia tutti gli amici di Padova che hanno potuto organizzare questo evento. Questo evento, esattamente. E compresa la venuta in Italia. Allora io direi che la cosa migliore per salutare e lasciarci è sempre quella di lasciare la voce alla musica. Certo. Esattamente. Ricordiamo l'appuntamento live di mercoledì, Maurizio? Sì, mercoledì avremo un gruppo molto interessante di folk sperimentale, i Marca Blu, assieme a Flavio Bilato e al sottoscritto, mercoledì dalle ore 22. Ok. Benissimo, per cui coloro che non saranno a Genova al concerto di Jont potranno seguire voi. Esattamente. Giusto? Benissimo. Perfetto. A nome di tutta Blu Radio Veneto, Jont, un grazie di essere venuto qui questa sera, di cuore, con affetto. Ti aspettiamo per il prossimo disco, se ti capiterà di passare, le porte sono aperte. He said that the doors are always open for you, so anytime you are here. Fantastic. It will be a pleasure. Grazie mille. Promise? Sì. Oh, okay. Con un bottiglia di primi. Ok. la grappa. E allora abbiamo detto che appunto ci lasciamo con della musica. We'll let Jont introduce his song. 1, 2, 3, 4. Came in here to forget. You're out been on a cold and lonely road and need something to make me warm again. You're out, I don't care who came before me. I don't care who just got up and left. I'm thinking about tomorrow morning. I just need something to make me warm again. Come on, get up. Let a motor running. I need something to cool it down. I need to turn it off and come in. Baby, it's been so long, I'm really needing it now. Yeah, you see a fall coming. You see our buildings falling down. Beyond a dream, there's only nothing. Won't you give me something to make some sense of it now? Come on, get up, let's roll. Come on, get up, let's roll. Grazie Padua.